Orecchie ai libri, un podcast originale per ascoltare la voce degli autori, i suoni della storia, il timbro della società, delle pubblicazioni di edizioni Pagina 1. Con entusiasmo e reverenza vorrei dedicare due puntate alle avventure di Basil Lee, un alias, la proiezione custodita di un bambino adolescente che sarà Francis Scott Fitzgerald. Le belle cose sembrano legate da un filo, siamo al quarto di grandi scrittori statunitensi. Edith Wharton, Ring Lardner, Thomas Wolfe, ora Fitzgerald. È il grandioso autore del Grande Gatsby, Tenera la notte, Belli e dannati, I racconti dell'età del jazz, Gli ultimi fuochi. Di quest'ultimo potete trovare un mio commento sul numero 64, anno 2019, della rivista, Pagina 1. È lo smanioso marito della spregiudicata Zelda. Insieme sono icone degli anni ruggenti, siamo negli anni 20, negli Stati Uniti, i Roaring Twenties. Mi verrebbe proprio da definirlo un Roaring Artist, Francis Scott Fitzgerald. Del tesoro che è l'opera di Fitzgerald raccogliamo nel Bosco di Latte, edizioni Pagina 1, una perla. Basil Lee e ci risiamo Basil Lee, il primo volume di racconti è del 2018 e il secondo è del 2019. Entrambi curati e in parte tradotti da Sabrina Campolongo, che ci guida tra le avventure di questo protoadulto con puntuali postfazioni. Ve ne avevo già accennato, se avete avuto curiosità o se dedicherete una decina di minuti ad ascoltare il podcast su Thomas Wolfe e la raccolta Un'oscura vitalità. Fitzgerald e Wolfe si conoscevano, si apprezzavano, sono stati fiori all'occhiello, seppur con storie personali e artistiche diverse di Maxwell Perkins. Fitzgerald ha avuto maggiore fortuna nella posterità, a dire il vero. Nasce a St. Paul, 24 settembre 1896, muore 44enne, il 21 dicembre a Los Angeles. Dunque uno scrittore che nasce nel nord, nel Minnesota, luogo di grandi laghi, prossimo al Canada. Gli otto racconti con Basil Lee, quel genere di festa, che è legato agli altri sul piano ermeneutico, in cui il protagonista non è Basil Lee, ma Terence R. Tipton, sono stati pubblicati tra il 1928 e il 1929 sulla rivista Saturday Evening Post. Cioè, siamo a ridosso del crack della Grande Depressione, proprio alla fine dell'età del jazz. Fitzgerald nasce in un ambiente tipico del Middle West, con un padre originario del sud, cattolico, distinto, aristocratico, ma spesso anche inefficace nel provvedere ai bisogni della famiglia. La madre ha un carattere romantico, irrequieto, è figlia di un commerciante benestante. Quindi sin da adolescente Scott vive una conflittualità. Gli ideali dell'onore, della cortesia, del coraggio trasmessi dal padre, l'evidenza del fallimento pratico paterno, i successi della nuova borghesia di commercianti rappresentati nella famiglia della madre, per cui la stima sociale e civica è monetizzabile dal riflesso della disponibilità economica. Scott nella scelta tra l'idealista romantico e il moralista scettico. Un altro paio di note biografiche, proprio per godere della pirotecnica capacità di racconto e di sguardo di Fitzgerald. L'incontro con la città di New York, dove abita prima con la sua famiglia e poi con la moglie Zelda, e la spinta a frequentare le prestigiose scuole dell'Est, Yale in primis. Riuscirà Fitzgerald a farsi iscrivere a Princeton senza laurearvisi perché verrà chiamato alle armi. Il richiamo all'Europa, conoscerà il salotto di Gertrude Stein, vivrà a Parigi. Per tutta la vita scrive, è uno scrittore di talento, dotato di grande sensibilità e intelligenza, anche capace di fare della propria arte un modo per guadagnarsi quanto l'attrazione per il mondo degli agi e del divertimento, a volte degli eccessi, gli sollecitavano a possedere. Delle due raccolte di racconti pubblicati da Edizione Pagina 1, Basil Lee e Ci risiamo Basil Lee, si possono cogliere i temi tipici del romanzo di formazione, la critica al moralismo, le obiezioni al consumismo, le perplessità sulla ricchezza come etichetta di valore civile. In queste puntate seguiamo i balzi, le cadute, gli inciampi e come il giovane Basil sappia rimettersi in piedi. Niente male l'aiuto che potete trovare al termine del volume Ci risiamo Basil Lee, che ci hanno dato curatrice ed editore nell'orientarci nelle epoche della vita del protagonista. Primo racconto, Il cacciatore di scandali, tradotto da Luisa Rigamonti. Basil si presenta, scrittore, amante delle donne, profondamente ambizioso e propenso a essere d'esempio e modello. Invidioso dunque dell'antagonista, Hubert. Non c'era niente da fare con Hubert Blay, se non accettarlo con filosofia. Basil dunque è anche saggio, anche se è davvero difficile. Leggiamo come Hubert entra prepotente nella scena di Basil. C'è da ridere, sì, ma non si può fare a meno di rodersi come il nostro protagonista. Ora, la scoraggiante commedia stava per andare in scena ancora una volta. Incapace di sopportare oltre il nauseabondo spettacolo, Basil raggiunse il gruppo e disse «Ehi, ciao Hube!» nel tono più noncurante che riuscì ad assumere. Hubert rispose «Ehi, ciao vecchio, vecchio Basil Basilisco!» e si aggiustò il cappello in un modo diverso, finché lo stesso Basil non riuscì a resistere e si lasciò sfuggire una risata suo malgrado. La storia si svolge tra le strade e i cortili di un quartiere residenziale borghese del nord degli Stati Uniti. Fitzgerald mette in campo subito la sua dote, di darci un'immagine di un sentimento, di qualcosa che è cuore, pancia, mente, attraverso metafore e correlativi oggettivi che hanno il profumo, la luce, il sapore degli oggetti che utilizza, a cui si riferisce. Ciò che è metafisico e psicologico diventa concreto, così che anche noi lettori arriviamo a sentire nelle narici, a sentire in bocca, sulla pelle. Basil e Ripley zigzagavano dentro e fuori dagli alberi, si fermavano di tanto in tanto con la mano sulla spalla di qualcuno e si riparavano gli occhi dal bagliore del sole serale che, proprio come la gioventù, è troppo forte per essere fronteggiato e quindi deve essere attenuato finché non si esaurisce. E in tutti i racconti il fuoco giovanile di Basil riesce a scaldare il lettore, trame semplici perché costruite su conflitti comuni del quotidiano, trame semplici riescono ad alimentare il fuoco dell'attesa. Attesa del lettore per ciò che potrebbe succedere, del protagonista che combatte contro la carcerazione nell'età degli irrisolti, questa età fatta di carte sparse su un tavolo barcollante. Il mazzo di Basil è fatto della carta del grande atleta, ma anche del ladro gentiluomo. Le ragazze, l'ammirazione, l'agilità, questo hanno in comune il grande atleta e il ladro gentiluomo, e sono le istanze che Basil desidera coltivare. Eh sì, è proprio ancora piccolo, diremo Basil nel primo racconto. Fitzgerald ci mostra come la bellezza delle età più tenere sta nel sapersi anche far scivolare intensi dolori di dosso e trovare nuove luci. Mentre Basil la fissava stupidamente e poi osservava le forme di Imogen e Hubert sparire dietro l'angolo, dal cielo affoso avvenne un sommesso brontolio di tuono e subito dopo una goccia solitaria scese dall'alto, tra le foglie illuminate dal lampione, e cadde sul marciapiede davanti a lui. La giornata si sarebbe conclusa con la pioggia, ma il cambiamento meteorologico gli aveva sgomberato il cuore e ora saltellava ogni pochi passi. Si scrollava di dosso la pioggia e gridava «Yuhu!» a voce alta, come se fosse anche lui parte della fresca e violenta interferenza notturna. Imogen se n'era andata, lavata via come la polvere del giorno sul marciapiede. Non sentite anche voi lo sferzare della pioggia sulla strada, l'odore di umidità riflessa, l'acqua che deterge dalle delusioni? Basil cresce già un po' alla fine del primo racconto, perché forse si accorge che il ladro gentiluomo ha una fantasia troppo fantastica, che lo distrarrebbe dall'eccitamento che il reale e il contingente gli offrono. Tuttavia il cambiamento in lui fu più profondo. Non era più sicuro di voler far parte dei ladri gentiluomini, anche se continuava a leggere le loro imprese trattenendo il fiato per l'ammirazione. Fuori dal cancello di Hubert si era per un istante sentito moralmente solo e si era reso conto che qualunque combinazione avesse ottenuto con i materiali della vita avrebbe dovuto essere prudente e rimanere entro i termini della legge. E passata un'altra settimana scoprì che non si affliggeva più per aver perso Imogen. Quando la incontrava, vedeva solo la ragazzina familiare che aveva sempre conosciuto. Il momento estatico di quel pomeriggio era stato un parto prematuro, un'emozione ispirata dalla primavera, già in fuga. Il suo sguardo era rivolto senza rimpianti verso le sconfinate opportunità dell'estate. Così ci immergiamo nel secondo racconto, si intitola Una serata alla fiera, traduzione di Giulia Sgura, il dramma dei pantaloni lunghi, che segnano il confine tra l'uomo bambino e l'uomo adulto. Che sofferenza per Basil sta dietro letteralmente a Ripley e ad Elwood, che peraltro sono descritti con ironia e non sembrano avere molto altro se non qualche centimetro di stoffa alle caviglie con cui primeggiare. Ah, questi pantaloni che lo tengono lontano dalle labbra delle ragazze. Non si può che immergersi nella lettura per capire e soffrire con Basil. Ah no? Ridacchiò Ripley Buckner. Ah no, ragazzino? Si piegò in due per le risate e la ragazza si unì a lui. La parola ragazzino era caduta su Basil come un getto d'acqua fredda. Nell'emozione aveva dimenticato qualche cosa, come uno zoppo potrebbe dimenticare di essere tale, per riscoprirlo solo quando inizia a correre. E ancora, è un'antica tradizione che tutti i ragazzi siano ossessionati dall'idea di diventare adulti. Questo è perché danno occasionalmente voce alla loro impazienza verso le restrizioni della gioventù. Mentre quei magnifici lassi di tempo durante i quali sono più che soddisfatti di essere ragazzi, trovano espressione nei fatti e non nelle parole. A volte Basil desiderava essere solo un po' più vecchio, ma niente di più. La questione dei pantaloni lunghi non gli era sembrata vitale. Li voleva, ma come abito non avevano il significato romantico di una divisa da football o un uniforme da ufficiale o addirittura il cilindro di seta e il mantello da opera con i quali i ladri gentiluomini erano soliti aggirarsi di notte per le strade di New York. Riuscirà il nostro eroe, prima della fine del racconto, ad indossare i suoi primi pantaloni lunghi? A sentirsi pienamente parte della caricatura lillipuziana della bella vita più sfrenata? Leggetelo questo racconto, perché peraltro è ricco di guizzi ironici, di sarcasmo. Piegatevici e piegatevi dalle risate su queste pagine. Il terzo racconto, Basil, la matricola più boriosa, vede Basil cresciuto di un anno al collegio di St. Regis, tradotto dalla curatrice autrice della postfazione Sabrina Campolongo. E qua Basil ha da lavorare, se la deve vedere con il cameratismo, le gerarchie, le dicerie, il branco. Basil si affrettò giù per le scale verso la sala di ricreazione. Era mercoledì e gran parte dei ragazzi erano già andati al villaggio di Eastchester, dove a Basil, ancora in punizione, era impedito raggiungerli. Guardando quelli ancora sparsi tra i biliardini e il pianoforte, si rese conto che sarebbe stato difficile convincere qualcuno ad accompagnarlo. Basil era piuttosto consapevole di essere il ragazzo più impopolare della scuola. Un giorno, meno di 2 settimane dopo il suo arrivo, un'orda di ragazzini gli si era radunata attorno, probabilmente istigata a farlo, e aveva cominciato a chiamarlo Saputello. La settimana successiva si era battuto 2 volte. La folla si era schierata in modo eloquente, con una certa veemenza, dalla parte del suo rivale. Subito dopo, mentre lui stava semplicemente spintonando in modo indiscriminato, come tutti quanti, per entrare nel refettorio, Carver, il capitano della squadra di football, si era girato e, afferratolo per la collottola, l'aveva bloccato per strigliarlo senza pietà. In maniera del tutto innocente, si era unito a un gruppo al pianoforte e si era sentito apostrofare: «Vattene, non ti vogliamo attorno!» Ci aveva messo 1 mese a rendersi conto dell'estensione della propria impopolarità. Ne era rimasto scioccato. Era diventato, infatti, il capro espiatorio, il cattivo di turno, la spugna che assorbiva tutto l'astio e l'irritabilità attorno a lui. Così come la persona più intimorita del gruppo sembra assorbire la paura di tutti, sembra essere quella che si spaventa per tutti. Ragazzi che qualche mese prima non avrebbero osato alzare la voce contro di lui, ora lo tormentavano impunemente. Tra le ombre dell'ipocrisia e della credine, il sole della speranza sale sull'apparizione di New York, la grande città, intesa così per le sue incredibili ascetiche architetture, ma anche come simbolo dell'età del jazz. Quella gita a New York aveva finito per rappresentare tutto per lui, una tregua dall'infelicità della sua vita quotidiana. Così come una sbirciata nel paradiso romantico così tanto atteso. Il suo rinvio, settimana dopo settimana, a causa dei suoi torti, aveva intensificato il suo desiderio fino a trasformarlo in una fame ardente. Tutta questa altezza di New York, questo sfarzo a un passo dal cielo. Badate, il mito di Icaro ci insegna che dall'alto si può rovinosamente cadere e l'economia americana si sta affacciando al crollo. Broadway, dice Fitzgerald, che quando si fa sera era un'ardente foresta in fiamme. In questo racconto Fitzgerald ci dipinge la crescita di Basil proprio grazie al rapporto con una serie di adulti, piuttosto deludenti, clowneschi, pieni di ammaccature. La figura del maestro di ginnastica è comica, è un concentrato di satira, così ottuso e saturo di pregiudizi. Ricordava bene che Basil era un ragazzo insolente e si aspettava che facesse qualcosa di insolente per cui avrebbe potuto rimproverarlo. Il suo silenzio irreprensibile lo irritava. Quindi è il maestro di ginnastica che accompagna Basil a New York. Come lo ritrova Basil? Pochi minuti dopo, stranamente scosso ed esaltato, Basil scivolò fuori con la folla. La prima cosa che gli cadde sotto gli occhi fu lo spettacolo, quasi dimenticato e ora curiosamente trasformato, del signor Rooney. Quest'ultimo, infatti, era andato un po' a pezzi. Tanto per cominciare, indossava un cappello diverso e molto più piccolo di quello che portava quando aveva lasciato Basil a mezzogiorno. In secondo luogo, il suo volto aveva perduto quell'aspetto in un certo modo grossolano ed era virato a un pallore puro e persino delicato. La cravatta e persino porzioni della camicia pendevano fuori dal cappotto inspiegabilmente fradicio. Soltanto la pressione esercitata dalla cattività in una scuola per ragazzi su uno spirito fiero, fatto per la vita all'aria aperta, poteva spiegare come il signor Rooney si fosse ridotto a quel modo nel breve spazio di 4 ore. Lì, bofonchiò, devi mettere giudizio. Ti farò mettere giudizio. Fitzgerald ci dice in tutti i racconti che crescere vuol dire scontrarsi coi fantasmi e attraverso essi cogliere la rivelazione, per un cambiamento di cui non si possono conoscere i risvolti, ma che ha nella sua novità il sapore della necessità e dell'impellenza. Una delle tante rivelazioni di Basil. All'improvviso Basil capì che non sarebbe affatto partito per l'Europa, non poteva sacrificare il forgiarsi del suo destino solo per alleviare la sofferenza di qualche mese. La conquista dei mondi successivi, scuola, università e New York, ecco, quello era il vero sogno che aveva cullato dalla fanciullezza all'adolescenza. E solo per via dei dispetti di qualche ragazzo era stato sul punto di abbandonarlo e scappare vergognosamente in un vicolo cieco. Rabbrividì con violenza, come un cane appena uscito dall'acqua, e di colpo si ricordò del signor Rooney. Qualche minuto dopo stava entrando nel bar, ignorando lo sguardo interrogativo del barista, diretto al tavolo del signor Rooney ancora addormentato. Basil lo scosse con gentilezza, ma deciso. Il signor Rooney si raddrizzò e si accorse di lui. «Metti giudizio!» bofonchiò con voce impastata. «Metti giudizio e lasciami in pace!» Ho messo giudizio, disse Basil. Sul serio, ho messo giudizio, signor Rooney. Ora deve venire con me in bagno a darsi una sistemata. Poi potrà continuare a dormire sul treno, signor Rooney. Forza, signor Rooney, la prego. Entrare nell'età adulta vuol dire intraprendere strade fatte di chiacchiere, supponenza, dicerie, lunatici giudizi. Si crede meraviglioso lui, tradotto dai laurea guerra. Nel corso dell'anno scolastico, durante il quale era stato punito per la sua boria, risultato di 15 anni passati in casa a farsi viziare per bene, era diventato vanamente introspettivo e ciò interferiva con quell'osservazione degli altri che è il principio della saggezza. Era ovvio che prima di riuscire con successo a confrontarsi con il mondo, avrebbe dovuto comprendere che si trovava nella mischia. Un bel problema i 15 anni. Di tutte le età, i 15 anni sono i più difficili da collocare, dice Fitzgerald, da identificare e per i quali poter dire: ecco, ero così allora. Il melanconico Jacques non ne fa cenno e tutto quello che ci è dato sapere è che a un certo punto, tra i 13 anni, quando si diventa maggiorenni dalla fanciullezza, e i 17, quando si è una sorta di imitazione di giovanotto, c'è un momento in cui la giovinezza fluttua di ora in ora tra un mondo e l'altro, spinta incessantemente verso esperienze senza precedenti, cercando invano di fare il ritorno ai giorni in cui tutto ci era dovuto. Purtroppo la conoscenza che passa dalle affinità elettive ed emotive autentiche anche oggi non è per tutti, e più spesso ancora sono gli oggetti, i beni materiali che fanno casting. L'estate aveva portato con sé una componente di enorme importanza. All'improvviso, nel gruppo di Basil, ciò che contava era diventato possedere un'automobile. Sembrava che ormai il divertimento si trovasse solo a grandi distanze, ai laghi fuori città o in sperduti country club. Passeggiare in centro non era più un passatempo legittimo. Al contrario, il singolo isolato che separava la casa di un ragazzo da quella di un altro andava percorso in macchina. Intorno a coloro che possedevano un'automobile si formarono gruppi che dipendevano da loro e questi iniziarono a detenere quello che, perlomeno per Basil, era un potere sconcertante. È molto dolce come la madre si renda conto che il suo Basil sta per decollare fuori dal nido. Basil ha avuto successo con una sua commedia. Non dovresti essere triste. Sai, dopo lo spettacolo tutti quanti mi hanno detto: «Oh, è tutto finito, non parlarmene mai più». Allora perché sei triste? Quando arriviamo a casa voglio che tu ti faccia un bel bagno caldo e che ti distenga i nervi. Va bene. Ma quando arrivò a casa cadde subito in un sonno profondo, sul divano. Lei esitò. Poi lo coprì con una coperta e una trapunta. Gli sistemò un cuscino sotto la testa mentre lui protestava e salì al piano di sopra. Restò a lungo inginocchiata a fianco del letto. «Dio, aiutalo, aiutalo», pregò, «perché ha bisogno di qualcosa che io non posso dargli più». E qui ci lasciamo per ritrovare Basil, investito di tante altre possibilità, ma anche costretto nella bardatura che è la società e che è la sua età. Insomma, sempre in tensione l'arco di trasformazione del nostro eroe cavaliere. Le frecce che i racconti di Basil Lee possono ancora scoccare non ci deluderanno. Un caro saluto da Elisabetta Gruppo per Edizioni Pagina 1.